Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 477, nella quale parleremo di polimeri assassini, ragazzine che salvano il mondo, maschi adulti, insettivori e laureati. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Quattro sacchi di quelli utilizzati nelle piantagioni di banane e numerose buste della spesa, per un totale record di 40 kg di plastica. E questo l'imbarazzante ritrovamento nel ventre di una balena di Cuvier, rinvenuta su una spiaggia delle isole Filippine. Ne ha parlato CorrieredellaSera.it il 19 marzo scorso. Mai vista prima una cosa del genere, ha detto il biologo Darrell Blatchley, fondatore del Debone Collector Museum, museo di storia naturale e centro educativo che si trova sull'isola filippina di Davao, che con i suoi colleghi ricercatori ha proceduto all'autopsia. Ero sicuro che fosse morta a causa della plastica ingerita, ma non ero preparato a trovarne così tanta. È veramente disgustoso che i governi non prendano provvedimenti contro coloro che continuano a usare corsi d'acqua e oceani come discariche. Questo paese è il secondo al mondo per l'inquinamento plastico. Negli ultimi 10 anni abbiamo recuperato 61 balene e delfini, di cui 57 sono morti a causa di reti da pesca, pesca con la dinamite e rifiuti di plastica. 4 di loro erano in gravidanza. Questo non può continuare. Le Filippine devono cambiare oppure non rimarrà più nulla alle nuove generazioni. L'abitudine di gettare nella natura e in mare sacchetti di plastica è diventata un'emergenza per l'ambiente particolarmente sentita in 5 nazioni asiatiche: la Cina, l'Indonesia, le Filippine, il Vietnam e la Thailandia, responsabili del 60% della sostanza tossica rinvenuta negli oceani. A rivelarlo è un rapporto dell'organizzazione ambientalista statunitense Ocean Conservancy e del McKinsey Center for Business and Environment, risalente al 2015. A noi, che ci sentiamo migliori del popolo filippino, farà sicuramente bene sapere che alla vigilia del Natale scorso, quindi Natale 2018, un capodoglio che venne soprannominato Leopoldo scelse i romantici scogli degli innamorati di Ischia per spiaggiarsi. Nel suo corpo furono rinvenute grandi buste di plastica e filo di nylon. Leopoldo ha portato con sé un messaggio che dalle isole filippine alla penisola italiana non possiamo più continuare a ignorare. dobbiamo cambiare le nostre abitudini e consuetudini, dobbiamo cambiare il nostro modo di vivere, di produrre, dobbiamo ridurre i nostri consumi. It's now that she walked away, her world got smaller. All the usual places, the same destinations, only something's changed. It's not that she wasn't rewarded, pomegranate afternoons, Mingus chat, baker and chess. It's not a stampede in fortune, a grim affectations. She's off on the right, but she knows now it's greater than the whole of the past. It's greater, and now she knows. Abbiamo parlato della plastica nella quale stanno letteralmente soffocando gli abitanti dei mari. Dunque è il momento per introdurre il prossimo servizio che ha a che fare con la plastica, con il clima, con il cambiamento dei consumi e dello stile di vita di ciascuno. Sono temi arrivati nelle ultime settimane alla ribalta non grazie all'ennesimo summit di potenti, non grazie all'ennesimo studio scientifico sul cambiamento climatico, nemmeno grazie a qualche inchiesta giornalistica sulla desertificazione dei suoli, bensì grazie a una ragazzina svedese che con pazienza e determinazione ha disobbedito per mesi all'obbligo scolastico per portare il suo corpo, la sua protesta e il suo messaggio all'attenzione del mondo. E ci è riuscita. Il servizio su Greta Thunberg è a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci. Ci avete rotto i polmoni. There is not a plan planet B. Non c'è un piano, anzi un pianeta B. È inutile conquistare la Luna per poi perdere la Terra. Pazienza, niente. Studenti per l'ambiente. Sono solo alcuni dei tanti slogan esibiti su cartelli e gridati a squarciagola lo scorso 15 marzo durante le innumerevoli manifestazioni indette in tutto il mondo sull'esempio di Greta Thunberg, la sedicenne svedese che la scorsa estate ha cominciato la sua prima solitaria, poi dilagante battaglia per spingere i governi a prendere provvedimenti seri contro i cambiamenti climatici. I Friday for Future, gli scioperi da scuola del venerdì per rivendicare il diritto ad avere un futuro, hanno dato uno scossone alla politica internazionale. La novità principale del movimento avviato da Greta è la sua voglia di mettere in discussione il sistema produttivo, quindi la logica del consumismo, lo spreco, l'estrazione incontrollata di risorse scarse. Passate le manifestazioni viene naturalmente il difficile, cioè passare all'azione. I filoni di intervento in verità sono chiari. Sono stati ribaditi a metà marzo nella quarta assemblea delle Nazioni Unite dedicata al clima, che si è tenuta a Nairobi, in Kenya. Il rapporto uscito dalla sessione ONU, curato da 250 scienziati di 70 diversi paesi, indica delle priorità. Occorre in primo luogo ridurre drasticamente il consumo di idrocarburi. E subito dopo c'è la questione del cibo, che secondo gli esperti ha due componenti. Una è la riduzione degli sprechi alimentari, grandissimi e intollerabili in un mondo che deve affrontare una crescita continua della popolazione. L'altro è quello che le persone meno vorrebbero sentire, e cioè bisogna ridurre drasticamente i consumi di carne, perché gli allevamenti sono una fonte diretta di gas serra e perché produrre carne ha costi ambientali indiretti enormi in termini di consumo di acqua, di inquinamento dovuto alle deiezioni, di disboscamento e sottrazione di terreni utili da destinare alla produzione di mangimi per l'alimentazione animale. Gli esperti dell'ONU dicono che bisognerebbe aumentare del 50% i consumi di vegetali e ridurre in modo significativo quelli di carne. La questione dei consumi di carne è molto sgradita e compare poco sui media perché coinvolge la vita di ciascuno e anche perché, se affrontato dalle autorità, permetterebbe probabilmente di ottenere risultati tangibili in tempi relativamente rapidi. Abbandonare la carne e passare a un'alimentazione prevalentemente vegetale è possibile oggi per chiunque. Spingere per un cambio di alimentazione, con campagne di formazione, con riforme dei menù nelle mense scolastiche e negli ospedali, impegnare risorse per favorire la conversione degli attuali allevamenti, sarebbe un progetto politico impegnativo, certo, e in qualche modo rivoluzionario, e però abbordabile. L'industria della carne si metterebbe certamente di traverso, ma di fronte a una volontà politica forte e a un'opinione pubblica preparata, finirebbe per soccombere. È questo probabilmente che spaventa, perché va bene parlare dei giovani scesi in piazza, notare che in fondo non sono del tutto schiavi degli smartphone, va bene magari anche citare Poemet, il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante, ma l'importante è che niente cambi, che subito si torni a parlare delle solite anacronistiche cose. I consumi da rilanciare, autostrade da asfaltare, gli aeroporti da ingrandire, montagne da bucare, prodotto interno lordo da incrementare. E tuttavia qualcosa sta accadendo. Greta Thunberg, è noto, ha scelto un'alimentazione vegana e mantiene uno stile di vita il più possibile coerente con il suo impegno pubblico. Ad esempio, si rifiuta di viaggiare in aereo. È possibile che molti altri ragazzi coinvolti nei Friday for Future seguano il suo esempio. Ma c'è anche un discorso più generale che si affaccia alla nostra attenzione. Il tempo dirà se l'iniziativa di Greta Thunberg darà vita a un vero movimento sociale, radicato in tutto il mondo e pronto a sfidare i poteri reali che stanno portando al collasso il pianeta e anche le abitudini consolidate, i privilegi e i vizi della popolazione che abita la parte più ricca del mondo. Intanto anche tutti gli altri, anche i gruppi e soggetti che si battono per grandi obiettivi, inclusa la liberazione animale, dovranno però confrontarsi con il cambiamento climatico e sentirsi parte della stessa corrente di pensiero e di azione. È dedicata a Greta Thunberg la ricetta di oggi, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, all'interno del suo spazio etico-gastronomico Il Pasto Gentile. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Bene e nel male tutti ne parlano e da soli 16 anni Greta Thunberg è riuscita a mettere la questione del cambiamento climatico sotto i riflettori. Ovviamente si parla di campagna studiata a tavolino, cercando chi manovra i fili con tanto di cantanti morte di fama, pronte a sparare il proprio giudizio pur di avere altri 5 secondi di notorietà. Per come la vedo io, semplice tosco vegan chef, credo che l'attenzione debba andare soprattutto al problema, e il tempo che potremmo perdere a pubblicare sentenze sui social, proviamo ad impiegarlo per riflettere a quale contributo ognuno di noi può dare per risolvere la questione. Quindi oggi dedico a questa giovane attivista una ricetta della sua terra, anche se probabilmente per lei la sua terra è il mondo. Gli ingredienti per 4 persone per il crop cocor sono 600 g di patate a pasta bianca, possibilmente invecchiate, 20 g di farina di ceci, 200 g di farina di frumento del tipo 0, una cipolla bianca, 50 g di granulare di soia oppure 200 g di seitan macinato, sale e pepe, brodo vegetale, un cucchiaino di paprika affumicata, olio extravergine di oliva, panna di soia, marmellata di mirtilli rossi. Lessate le patate in acqua, quindi sbucciate e prima che siano troppo fredde schiacciatele con uno schiacciapatate. Sciogliete la farina di ceci in poca acqua e un cucchiaio di olio e unitelo alle patate, quindi lasciate riposare. Nel frattempo preparate la farcitura, tritate la cipolla e fatela scottare con poca acqua. Quando questa sarà evaporata aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e lasciate soffriggere per qualche minuto. Unite il granulare di soia, bagnate con del brodo vegetale e fate ben ritirare. Aggiungete la paprika affumicata, aggiustate di sale e pepe e togliete dal fuoco. Adesso aggiungete la farina alle patate e lavorate la pasta. Realizzate un cilindro e tagliatelo a fette spesse un paio di centimetri. Schiacciate ogni disco infarinando leggermente. Disponete al centro di ogni disco un cucchiaino di farcitura, quindi richiudete dando una forma sferica delle dimensioni di un mandarino. Fate cuocere in acqua bollente e salata per 5 minuti, quindi scolate e condite con un cucchiaio di panna di soia e servite accompagnando con la marmellata di mirtilli rossi. Plogging è una nuova attività sportiva nata in Svezia, che consiste nel raccogliere dei rifiuti mentre si corre. La particolare attività combina esercizio fisico con la pulizia dell'ambiente. Il termine è un neologismo nato dalla combinazione delle parole svedesi plockup, ovvero raccogliere, e jogging. Dato che le preoccupazioni globali sull'inquinamento si stanno diffondendo sempre più, il plogging ha cominciato a estendersi in altri paesi. Speriamo che arrivi presto anche in Italia. In tema di cambiamenti ambientali vi propongo un brano del 1984, My City Was Gone, dei Pretenders, che parla di Akron, una città dell'Ohio, trasformata in un luogo dormitorio senza personalità. Il testo dice: sono tornato in Ohio, ma la mia città era sparita, non c'era più una stazione ferroviaria, non c'era il centro, la mia città era stata abbattuta, ridotta a parcheggi. Nonostante gli anni, la canzone resta sempre attuale. Reduced to parking spaces. Hey, oh. go to Ohio. È questo l'identikit del consumatore europeo più propenso ad accettare gli insetti nel proprio piatto. Emerge questo da un articolo pubblicato sulla rivista Food Research International da un team del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa, guidato dalla professoressa Gisella Paci. I ricercatori hanno messo insieme e confrontato i dati provenienti da una quarantina di studi pubblicati dal 2012 a oggi per capire quali categorie di persone sarebbero più disponibili a consumare insetti come cibo. Gli uomini fra i 20 e i 30 anni sono i consumatori più interessati, soprattutto per una questione di curiosità, spiega Simone Mancini, che sta svolgendo alcuni progetti di ricerca sul tema degli insetti edibili. E questo vale sia a livello italiano che europeo. Fattore curiosità a parte, dalla rassegna condotta dai ricercatori dell'Ateneo Pisano emerge che le persone preferiscono comunque consumare gli insetti come ingredienti piuttosto che interi. Il disgusto provato dal vederli gioca infatti un ruolo fondamentale. Se invece gli insetti edibili sono trasformati in polvere e addizionati come ingrediente a un prodotto noto, la repulsione scende notevolmente. Sembra paradossale il fatto che non venga considerato disgustoso divorare un altro vivente, ma piuttosto viene considerato disgustoso vederlo, quindi conoscere direttamente quello che stai facendo, esserne più consapevole. E questo è interessante. Gli insetti fanno parte della dieta tradizionale e sono storicamente consumati come animali di allevamento e di cattura in Asia, Africa, Sud America e Centro America, sottolinea Gisella Paci. La sfida è capire come anche in Occidente si possa accettare culturalmente questo nuovo cibo. A favore del consumo degli insetti giocherebbero infatti molti fattori. Numerosi studi scientifici evidenziano il loro alto valore nutrizionale come fonte proteica di lipidi, minerali e vitamine. Dalla loro parte hanno anche una maggiore sostenibilità ambientale rispetto ad altri allevamenti. Il loro allevamento infatti richiede meno acqua e cibo e produce una quantità minima di gas serra. All'allevamento di bovini, al contrario, è attribuita una grossa fetta, stimata intorno al 20%, delle emissioni di CO2 che affliggono il pianeta. E inoltre un elevato consumo di suolo, di cereali e risorse idriche. Questo studio, pubblicato sulla rivista Food Research International, ci porta con la memoria al maggio 2015, quando uscì una indagine Eurisco che stabiliva che il popolo dei vegani era composto soprattutto da donne. Lungi da noi voler dichiarare qui frasi banalizzanti e imbarazzanti, tipo da che mondo è mondo, l'uomo è cacciatore o simili. Però, avendo appena parlato del fenomeno Greta Thunberg, può effettivamente aver senso, arrivati a questo punto senza ritorno della nostra inciviltà, una inciviltà fondata sul patriarcato, pensare che saranno proprio le donne a indicarci la nuova strada, una strada di cambiamento, di rinnovamento e, perché no, di rivoluzione. Spettacolarizzano il dolore giocando con la vita e la morte di animali innocenti. Queste non sono le affermazioni di un qualche attivista animalista raccolte a un banchetto davanti a un circo, bensì sono le solenni affermazioni di un consigliere di amministrazione nonché dipendente della RAI e riguardano la problematica messa in onda del Palio di Siena in diretta TV. Tutto nasce da una gara ciclistica, la corsa Strade Bianche, che si svolge ogni anno nel Senese proprio a inizio marzo. La gara si conclude in Piazza del Campo e due giornalisti della RAI, facendone la cronaca, hanno descritto la curva di San Martino come tristemente famosa e pericolosissima per i poveri cavalli del Palio. Questa frase ha fatto infuriare il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, che ha minacciato di rompere l'accordo con la RAI e di rivolgersi ad altre emittenti. Seguiremo gli esiti della vicenda, ma sarebbe davvero auspicabile che la Ganà non restasse una voce isolata e che la RAI scegliesse di astenersi dal mandare in onda uno spettacolo che noi riteniamo triste, anacronistico e anche barbaro come il Palio di Siena. I was born in a bunk, my mom and dad. My daddy got drunk, left me here to die or grow in the middle of Tobacco Road. I grew up in a dusty shack, and all I had was a hanging on my back. Tobacco Road, but it's home, the only life I've ever known. Only you know how alone. Siamo in chiusura. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 478 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.